Welcome, Federico. Hostile takeover. Buonasera, amici ascoltatori. Siete ritornati a una nuova puntata di... Cosa c'è? Ma stai ancora... Perché buonasera? Ma tutte perché... le sacrosante. Ma perché lo stiamo registrando di sera? Lo stiamo registrando di sera, non va bene. Saluto generico a tutti i miei ascoltatori. Non sono solo i tuoi ascoltatori. Ai miei li saluto in modo generico. Ah, io posso salutarli allora come ho voglia? Certo, benissimo. I miei non hanno influenza, non sono generici. Buonasera ancora a tutti i nostri ascoltatori di Hostile Takeover. Naturalmente una... rubrica del caro e vecchio podcast di Netrunner di Federico Latini, sì, che ha ripreso le registrazioni con delle cose interessantissime, tipo le ha parlato della nuova espansione di, mi stai guardando con uno sguardo interrogativo, delle nuove espansioni. È che è da un po' che non ho internet a casa e quindi non è che sono proprio sul pezzo. Ah, ok, perfetto. Comunque non vi preoccupare, anzi non ti preoccupare, recupererò. Benissimo, allora, cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare prima di tutto di un torneo che quando uscirà questa puntata sarà sicuramente già avvenuto, ed è la prima tappa 2015 della VGN Corporation, un torneo che secondo me avrà miliardi di partecipanti. Sì, anche perché abbiamo un sacco di premi anche questa volta. Mm. Sì, sì, sì, tantissimi premi. Tappetini per il gesso, sì, per il asciugamani incoordinati e altre cose con cui potete poi fare la vostra dote, ecco, quindi se vi sposate sapete benissimo, venite al nostro torneo, riceverete un sacco di cotillon e vari frizzi e lazzi. Quindi, sti cazzi. Sì, niente, ma la gente non vuole sapere del parliamo torneo della... del 5 di ottobre. Cioè, parliamo della cosa che ha animato di più le discussioni, anche se tu non le sai perché non hai avuto internet. Beh, quindi... c'è da dire che però tu invece eri all'estero, non l'hai seguito bene questo... È vero, io cercavo di... all'estero? Sì. Sì, è vero, sono stato all'estero, io cercavo di raccapezzarmi su questa cosa, ma mi ha molto colpito il fatto che... Vabbè, diciamo, hanno fatto la pelle a Netrunner DB. Quando era avvenuto il fattaccio, diciamo che era soltanto un cease and desist. Cos'è un cease and desist per gli ascoltatori a casa che non conoscono questi fatti legalesi? Un cease and desist è una letterina che arriva dall'avvocato. Dice: zio, bella lì, se non la pianti di fare quello che stai facendo, ti faccio causa e ti spello e ti porto via tutto. Ti proprio. Spello non nel senso che ti lancia una magia, ti spella la pelle tipo. E stavamo posto. Dicendo che allora niente, cosa ha ricevuto un cease and desist? Il tipo Alciende si chiama, francese, belga, bravissimo a programmare, aveva fatto un bellissimo sito, voi penso che conosciate, se non conoscete troppo tardi oramai, ecco. Vabbè riga, dovete fare come facevamo noi quando eravamo giovani. Raccoglitore sulle cosce, al cesso, girate le pagine e vi fate i mazzi. Purtroppo adesso è l'unica cosa, perché ci sarebbe CarGameDB, che è di proprietà della Fantasy Flight, non a caso, però fa cagare, cioè, è uno dei peggiori deck builder che c'è online, che è quello che ho sempre usato io, tra naturalmente. A me non me ne cala un Kaiser. E sappiamo che altri deck builders online hanno chiuso più che per The Season Desist, per detto vabbè, tira brutta aria, chiudiamo baracca. Però vorrei far notare che tutte queste cose, questi deck builder praticamente non avevano neanche la pubblicità e facevano chi l'aveva programmati e fatti, l'aveva fatti per, diciamo, per aumentare il giro di volume attorno a questo sì, gioco. Sì, infatti è stato un autogol, perché fondamentalmente si sono tagliati le gambe da soli. Potevano avere un maggior numero di persone per giocare a questo gioco, coinvolte da degli strumenti semplici, e invece adesso gliel'hanno tolti, ciao. Cioè, fate come la Microsoft di Bill Gates, quando non aveva qualcosa da fare, c'era qualcuno che faceva meglio, lo comprava. Oppure fate come i filmi, che la gente si scarica i filmi, se li guarda e dice, è bello, poi lo dice a quell'altro, guarda di sto film, e io non me lo scarico Filmi perché non sono capace, vado a comprarmelo. Ecco, avete quindi capito? La pirateria, ragazzi, quello che vi hanno sempre detto, è una grande bufala, lo fanno loro. Sì, però qua, invece se siete vicino alla Somalia, fate attenzione che la pirateria è vera. Sì. Fate attenzione. Mi scusi, ma mi sta scaricando il peschereccio? Metto a downloadare. Metto a downloadare il peschereccio. No, vabbè, è stato un peccato, appunto, non sappiamo come andrà. Ci sono alternative, cioè Aku e altre cose così, però è stato veramente un bruttissimo autogol per la Fantasy. Vabbè, raga, pace. Che vabbè, cioè, gli compriamo lo stesso le carte, però... Le figo. Comunque, bene, abbiamo fatto il discorso serio del giorno. Adesso parliamo del vero e proprio argomento della nostra puntata, ovvero abbiamo finalmente la sigla per la carta del giorno. E Luca Ricci, tra l'altro, c'ha uno strumento che sembra una tavoletta di cioccolato nera con dei tastoni, alcuni che si girano e altri che si schiacciano con le manine. E quindi adesso facciamo partire. Adesso fai partire la sigla. La carta del giorno. Conduce Nova Sally. Sì, ma non la taglio, è così. Cioè... può durare 20 minuti. No, 20 secondi. L'originale dell'almanacco, quindi. Ma ci hanno fatto delle storie perché le nostre sigle durano tantissimo. Hai fatto le sigle scaricabili dal cellulare per fare le ringtones? Ma per farlo col Nokia, cioè, l'altro giorno ero in metropolitana, è partita la balera si incendia e tutti quanti mi guardavano con sex negli occhi. Vabbè, allora passiamo subito alla mia prima carta del giorno e ultima per oggi. Per me, poi tu c'hai la tua. Io la mia seconda. Allora, la mia ha un nome impronunciabile in inglese. Si chiama. Vabbè, è quella. L'Operation Current. Si chiama Enhanced Login Protocol. Vabbè, vai, descrivo. C'è un. Prova a dirlo tu. Login Protocol. La tu verata Nick tu. L'ho detto. Fondamentalmente è un'Operation Current HB, due di influenza e due crediti per lanciarla, ed è una di quelle bellissime carte introdotte che a me piacciono, altri invece fanno cagarone. A me piace tantissimo, anche a lui piacciono tantissimo. Assai. Che cambiano un pochino il fare del gioco. La meccanica, sorte, sì, sono delle sorte di incantamondo che quando vengono giocate rompono un po' le scatoline. Però non sono definitive, nel senso che... In particolare questa cosa dice? Questa qui dice che praticamente rimane in gioco fino a che non viene giocata un'altra current. Oppure quando un'agenda mi viene rubata. Cioè, quindi o corridori... Corrente. Ma runner, sì. Nella versione italiana si chiama corridore? Penso di sì. Seriamente? Rannatore? Ranato? Ranato? Ranella. Vabbè. Comunque, corridori, correte, rubate un'agenda e questa current salterà. Ma che effetto fa questa? Quindi tutto quanto costa? Costa 2, l'ho detto. Due. Allora, cosa fa questa roba qua? È un palo è un palo nell'oscureggione. Ovvero, fondamentalmente, non è cosa vuol dire un palo nello scureggione. Un palo nello scureggione lo sapete. Ma cosa fa la carta? Come costo addizionale per fare la vostra prima run, ma che non sia fatta attraverso una carta che dice fate una run, tipo una Can Siphon, tipo un sifone. Oh, cazzo, ho detto cazzo. Mi sono giocato la carta. No, tranquillo, hai detto sifone. Ah, vabbè. Vabbè, però forse poi magari cambiamo, va. Tipo un sifone, tipo un dirty laundry, tipo uno steam hawk e via dicendo. C'è un'aquila, sì, un'aquila di ferro. Vabbè, riga, la sapete che carta è? No, non la so. Cioè, praticamente il runner deve pagare un click in più, ovvero io inizio il mio turno. Sti cazzi! Scusa, devo fare la Megoyotis. Cioè, io parto, primo click, faccio una run sull'HQ. Va bene, oltre a fare una run sull'HQ, mi spendi un altro click per iniziare. Quindi, click, click, runno. Se invece dovessi fare, inizio il mio turno, faccio Dirty Laundry su HQ, basta, il mio primo click è andato, lo uso una volta sola, non aggiungo il click che mi chiede la carta, ma metti che fai sifone come primo click. Sì. E come terzo click decidi di fare un'altra run, devi spendere un altro click. No, sì, no, sì, no. The first run. Not made through Academy. Allora, devo dire che i ragazzi con cui ho giocato l'altra sera sono degli infami, perché anche io l'avevo interpretata in questo modo. E invece me l'hanno spiantocchiato. Tu chiamas nello scureggione. Altra roba per cui me l'hanno spiantecchiato nello scureggione, quindi anticipo la rubrica Chiedilo a Sisop. Era quella bellissima carta che ho Island Grid. Island Grid, Froiland Grid. Che ho girato pagina. Che tu non puoi avere lì dentro perché c'è l'altro mazzo. Ok. È un upgrade anche questa che è uscita fuori nell'ultima espansione. Adesso non mi ricordo se è il primo, del secondo o del Lunar Cycle. È una regione dell'HB. Fondamentalmente dice: quando spendi un click durante una run su questo server in cui viene installata appunto questa regione, perdi tutto il kilo cash. Raga, ma attenzione a questa cosa qua. Durante una run, quindi il click perso in più come costo addizionale di Enhanced Login Protocol è considerato all'inizio della run. Esatto. E quindi non conta per Unlay Grid. Unlay Grid funziona per esempio con un Eli dove spendi il click, una Warclass, anche la fantastica agenda. Un Enigma anche. Sì, ho anche l'agendina quella da 1-3-1 che ti dice: ah sì, un false lead. Sì. Togli uno spippotto, ciucci via due click. Poi cioè fai un sacco di combo, quello si ritrova davanti a un Ice mega gozzo senza kilo, senza click. Ciao baby. Ok, ciao, bene, baby. Quindi ti è piaciuta questa carta, ti piace molto. Come si chiama? L'occhietto. No, di il nome per Enchanted. Parla al microfono, per Enchanted favore. Enchanted Login Protocol. Ok. Bene, abbiamo concluso. Che era anche, scusatemi se vi interrompo, era anche la spina dorsale di Il Calabrone, il deck che avrei voluto utilizzare al torneo, faceva un sacco di figate, l'avevo montato, era bellissimo. Ma per questo podcast di Schrödinger, cioè finché non esce non lo sappiamo, secondo me potreste ancora portarlo. Ma no, non lo te sappiamo. Lo dico stasera, guarda, anteprima mondiale, tanto uscirà dopo che abbiamo fatto il torneo. Monto Wayland, boom. Ma proprio quello ignorante, scorcioni, sì. scorcioni. Cos'è che monti? Jinteki. Ovvio. Ok, benissimo. Abbiamo terminato con la carta del gioco. Non c'è una sigla di uscita, vedi? Io ho tolto le sigle di uscita. Ma quindi... se tagliamo a metà la sigla, facciamo metà in anticipo, metà alla fine, almeno ce la godiamo tutte le volte. No, ma là ce la devi sentire che piace. Vabbè, fammi sentire una sigla che mi piace a me. Ma cos'è? Forse è... Quello. Ah, devo farla partire. Allora, rifacciamo. Non hai tempo comico, Luca. È il tempo comico di una piastrella abbandonata sotto il sole del deserto. È vero, purtroppo. Vabbè, fai partire la sigla di Wildside, la balera degli Anarch. Ci hanno detto che dovremmo accorciarla questa. Ma io non posso neanche succarmi il soffocchiotolo. È un po' come uccidere il primogenito, ecco. Penso che quella gente là, chi erano? Gli ebrei. No, gli egiziani erano. E Luca Ricci. Grazie Luca Ricci, avevamo dei fondi, li abbiamo persi. No! Adesso ci tocca aspettare l'8x1000 e avere qualcuno che... Va bene. Allora... Ma erano gli sporchi ebrei. No, non ho detto sporchi. Se okay. Vuoi ci sono anche un sacco di altre minoranze che possono essere sì, utili. Bene, certo. Se te la vuoi prendere con io il fantastico pensando popolo alle... cinese. No, io sto pensando. Ci sono pochi. Non sono pochi. Allora, io sto pensando all'episodio. Ma sono porci, dillo, no, dillo quello che pensi. No. Io sto pensando all'episodio biblico quando si metteva. Senti, si sono argomenti che non dobbiamo toccare. Noi siamo una trasmissione. Siamo apolitici, apolidi. Ma io sono di sinistra, però comunque siamo apolitici, siamo areligiosi, religiosi. Io sono agnostico. Nel senso che? Mi piacciono gli gnocchi. Allora sei agnocchico. Agnocchico. Okay. Agnocchi. Buoni. E allora, Questa tra l'altro è giovedì oggi. È giovedì, e che significa? Che la mamma ha fatto gnocchi. Esatto. Quindi, spoiler, questa puntata è stata registrata di giovedì. Esatto. Non si a sa... cavallo tra il giovedì e il e il vertigo. Cosa dicendo? Vabbè, non lo so. Io continuo a pensare che ci droghiamo e non lo sappiamo. Allora, questa canzone che è stata ispirata da, da Noah, che ha deciso di tirare fuori una carta a caso, e la carta era The Roots. The Root, The Root, The Root. Che dice? Fa root. Delle cose. Cosa fa? No, non lo so davvero. Ho guardato solo i titoli per le, per le carte. Non lo so. E vabbè, insomma, ho fatto un salto pindarico. E cosa poteva saltare? Un gruppo veramente super mega strafigo, che sono i The Roots con The Seed. Ascoltatevi un po' di questo rock dei dopo anni 2000. L'ho trovata. È troppo tardi, questa è inizio da canzone. Soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peak the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't E questo era The Seed dei The Roots. singolo uscito nei primi anni del 2003. Nei primi anni del 2003, sì, perché il 2003 è diviso in più anni. Sì. C'è l'anno della scimmia, l'anno del serpente. Ah, stai cercando di guadagnare punti sul grande popolo cinese. Sì. No, zio. Comunque, stiamo parlando... Stiamo parlando del 2003, l'album Phrenology. In italiano vuol dire? Frenologia. Che è la scienza che studia le dimensioni di un cervello, oppure potrebbe essere il frenulo a mano, esatto, quello che tiro lì a per andare giù con la macchina là. Il frenulo a mano, niente, The Roots era un grandissimo gruppo hip hop rock, infatti in realtà il genere con cui viene classificato di solito alternative rap, vabbè, insomma sono cose. Per me, io l'ho sempre considerato comunque con grande influenza rock blues, quindi. Perché mi guardi sempre con questa aria interrogativa mentre parlo di queste cose? Ma perché sono le cose che di cui non so nulla. Cioè... E quindi giustamente dici. Ma d'altra parte mi sto domandando che sono troppe le cose di cui non so per fare una trasmissione podcast. Ma sì, per esempio, musica, quel minimo. Musica. Non conosco il nome delle carte, non conosco la musica, non conosco come i tempi. Cioè, no, i tempi comici non so io che i non tempi li so. Verbali. Ci sono tagliati per il culo. Vabbè, dai, almeno qualcosa lo sai fare. Culo. Il produttore di questa canzone, oh, ma Lucari, ma è The Grand Wizards, il grande wizzardo. Ma penso sì, che tutti abbiano di assonare riferimenti. No. Riferimenti. Comunque, allora passiamo alla nostra prossima. Passiamo alla nostra prossima sigla, che è Che fine ha fatto Simone San Diego. Che fine ha fatto San Diego? Arriva a Nashville da Tokyo via Roma e Milano, Parigi, Argentina e poi tornerà. Way! Sempre una maniera da più... oggi con più way! Con più way! Allora, signori, c'è stata una poca partecipazione della vecchia... questa rubrica nella vecchia puntata. Sì, ma anche perché strano, perché le carte erano semplicissime. Una era TVNMDB, che era ovviamente il TGTBT, che è quella roba TGTBT agenda NBN NBN che 2-5 che praticamente se la pigli o ti tagga, se la rubi ti tagga. Esatto, quella azzurrina con una che vuol dire too good to be true. È un riferimento a Bitcoin, vuol dire insomma non può essere troppo figo per essere vero, insomma. Esatto. Quindi TVNMDB, che vuol dire ti voglio un mondo di bastonate. Bene, abbastanza. E l'altra invece era l'idraulico. Ragazzi, l'idraulico è lo Snick d'Arbeta. Perché passa dal cesso e recupera il chilo. Hai visto? Beh, mi pare ovvio, ma poi anche la figura, c'è cioè un tizio con una che sta facendo un tiro, esatto. E passa il cesso. Il cesso è gli archivi, quello che voi italiani chiamate. Se per sbaglio invece vi abbiamo persi nell'internet e riuscite con una controprova fotografica con il notaio a dire che l'avete azzeccato, allora vi potremo dare un premio. Ma per adesso qui non c'è una palca sulle spalle. Una pacca sulle spalle. Invece, per questa nuova puntata, visto che siete delle dei culopesi. Dei culopesi, abbiamo deciso. Penso. Abbiamo deciso. Sa. Nel mio intimo c'è Cilli. Sa. Prova one two. Sei andato avanti, grazie. Sa. Abbiamo deciso di ho deciso, visto che il chilo lo sgancio io. Il nostro sponsor. Di invogliarvi con una carta. Allora, al primo che manderà in qualsiasi forma anonima, anzi non anonima. No, anonima direi di no. In qualsiasi però, forma, cioè via messaggio 349. No, 5, no! Allora, se ci mandate commento su Facebook, sul gruppo, scrivete sul sito, mandate un'email addirittura al nostro indirizzo email vgncorp@gmail.com. Verona, Genova, Napoli, Corp. Tutto attaccato, tutto minuscolo come si dice ai vecchi. Senza lo spazio. Ok, il primo che indovina le due carte del giorno di Simone San Diego così vincerà uno Scorched Earth Alternative Art offerto dal nostro sponsor Nova Vassalli. Sì, ve la portiamo al torneo, ve la spediamo anche se siete troppo lontani. Cioè, sei tu, sei tu da Bari che lo vincerai e io te lo farò arrivare. Sei tu, caro da... Margo. Margo. Ce la farai stavolta a prendere questa? Secondo me sì. Ora, oh, un'alternative art dello scorcione, cioè. Ah, vale solo un tentativo, però, quindi, cioè, già. Cioè, perché sennò inizia. Chi era? Margo sembra che ha scritto 27 pagine. Ma Margo... Ho scritto un libro addirittura su questo argomento. Quindi. Tanto poi, carici, questa parte la tagli, ma io dico a te le carte cosa sono, tu lo scrivi e vinci tu e ci facciamo la... Wow, prima. Che figata! Vabbè, dammi il tempo. 3, 2, 1... Ed eccoci qua. Adesso le carte sono... La prima è, guardate che era una gag, non lo facciamo davvero. Comunque, la prima carta è Fortuna Drago. Fortuna Drago. Io sono scemia. Poi tra l'altro è un podcast, tornano indietro se non hanno capito e lo risentono. Ma magari hanno noia, cioè sul mouse, che ne sai. Magari stanno ascoltando la nostra trasmissione mentre vanno a correre. Esatto. Ma cosa che mangi? La droga, quanto pare, ne vuoi po'? No, grazie. Grazie. E la seconda carta è Erpiotta. Erpiotta. Su che ruota? Di Napoli. Quindi Fortuna insomma. Drago ed Erpiotta. Allora, chi indovina vince. Vince e vince la carta Scorched Earth Alternative Art spedita a casa se siete lontani. Se invece sappiamo che siete vicini ai tornei, ve la portiamo. Sì, le vostre preziose manine. La roba, com'è che si chiama? Le spese di spedizioni. Pago io. Luca Ricci. Minchia, c'è anche tu il chilo, eh? Sì, minchia. Adesso vengono tutti qua, i bambi. Bambi. E quindi, avete capito questa... Se siete pronti di... Pronto? Buonasera, sono della NBN. Lei è il signor Lee? Chi lo vuole sapere? Abbiamo ricevuto il suo nominativo dal signor Santiago Gabriel. Pezzo di me. Sì, buonasera signore. Sono Bernice May della NBN. La chiamavo in merito all'offerta Tagga un amico. E il signor Santiago l'ha nominata per avere uno sconto sul nuovo abbonamento del palinsesto NBN. No, senta, guardi, non sono veramente interessato. Le vado ad illustrare il palinsesto della nostra fantastica emittente televisiva. Sì, guardi. Alle ore 19, account iPhone, pazzi per la spesa. A seguire, alle 19.30, Heads a Pawn Shop. Mio figlio poteva morire. Che bello. Poi, alle ore 20, ma come ti rezzi con il fashion blogger più famoso di New Angeles, Thomas Sass. No, senta, guardi, ho lasciato la console sul fuoco, devo scappare. Alle 21 in prima serata ci sarà Wild Side sotto le stelle, condotto da Isabel Maguire. Senta, va bene, ok, ma quanto mi costa sta manfrina? Allora, solo per lei, signor Lee, l'abbonamento costa 10 crediti ricorsivi ogni mese. Minchia, 10 crediti? Mi ci installo un toolbox con 10 crediti? Sì, ma lei non capisce. Non capisco. Ok, l'avete taggato. Scusate, c'è stata un'interferenza. Carici, ma ti hanno hackerato il computer. Ma c'hai sto Pentium 2, ma avevi detto che era una figata, una bomba, non te la hackerava nessuno. Veramente, veramente un 486 comunque. Sì, 486 sono le ultime tre cifre del tuo numero di telefono. Ma ora ma... è completo. Il mistero di Atlantide è stato svelato. Niente, abbiamo recuperato la trasmissione. Ci hanno fregato la trasmissione. Noi ci che l'abbiamo fregato la banda. È un po' meta questa cosa. Sarà stato quello là, il Latini. Il Latini. Mai fidarsi di quelli lì. Quelli di? Di Latina. Di Latina, sì. Dov'è che è il Latini? Di Bologna. Ma bolognesi, falsi e cortesi. va bene, ok. Continuiamo con la prossima sigla. In questo caso, che Luca ci taglierà. Taglierà, invece no, ed è la carta del giorno mia. Andate avanti veloce, vi prego. Vabbè, passami la carta tanto. No, te la lanci. Ok. Vabbè, adesso un bel fade. Allora, la carta, la mia carta del giorno. In questo caso, tema, la mia carta del giorno. Svolgimento. Targeted marketing. Targeted, questo non lo so pronunciare io. Pensate. Target marketing. Targeted. È perché c'è questa ed che non dovresti dirla, però. C'è una doppia E qua. Targeted. Vedi? Non dovresti dire anche questa E. Questa E con. Vabbè. Targeted marketing è un'operation current, sempre dallo stesso blocchettino di Enhanced Login Protocol. Madonna, che padronanza di sì. 6. Di 6, che padronanza di 6 che hai. Cioè, vado a pigliarti per il culo di come parlo. Vabbè. Allora, Operation Current. Quindi, current guagliò, anche questa rimane in gioco finché non viene giocata un'altra current, anche con del runner. Oppure viene rubata un'agenda. Dice, nomina una carta. Guadagni 10 crediti quando il runner gioca o installa quella carta. Già. Megoglioni, eh? Tra l'altro, costo 0 e 1 sì. Di influenza. E Luca Ricci, io te l'ho visto giocare. Che cazzo è arrivato Godzilla? Oddio. Ancora, spostano i mobili. Vabbè, abbiamo dicevo, dei problemi. L'ho vista ieri sera giocata. Tu l'hai giocata subito di primo. Contro una, cos'è, un'Andromeda? Contro un... un criminal, un silhouette. Sto un attimo pensando, un silhouette. Contro un silhouette, l'hai cagato giù di primo e hai dichiarato easy mark. Eh sì. Perché giustamente quello là, poverino, gli hai troncato. Quindi, un po' di economia. Esatto, cioè giocandola per esempio contro le carte economiche significa, naturalmente capendo cosa sta giocando l'op, vuol dire sì, che quando lui gioca una carta economica e prende i soldi, tu ne prendi molti di più. Insomma, ma sai che ridere se tu la giocavi a sgombro di soldi? Dichiaravi account siphon, lui ti faceva l'account siphon, ti dava 10 kg e si pigliava i soldi. Ecco, non giocatela contro account siphon forse. No, beh, comunque in realtà è una carta che è una carta molto interessante perché è un gioco interattivo. Tu stai obbligando il runner a decidere se giocare quella carta oppure tenersela in mano, quindi è una specie di denial al contrario, sempre sulla scelta del runner. Che significa che si possono fare delle belle giocate e eventualmente vi ritrovate con un chilo di cash nel caso in cui obbligate il runner a giocarla. Naturalmente significa che o per nominare quella carta o l'avete vista già giocare, quindi pensate che siano tre perle. Vabbè raga, le carte o se no dici sure gamble e vai zio. Sì, sure gamble, gli tagli ancora anche lì le balle. Sì, so. O che ne so, boh, dipende contro chi stai giocando. Contro Anarch, cosa ti verrebbe da dire? Bella questa trasmissione, questa rubrica. Io sto giocando questa trasmissione contro... è bella anche questa. Sì. Dai, io la sto giocando contro il criminal. Di primo turno tu dichiari easy mark, mi hai detto easy mark. A mid game si guarda le carte che ha. Vabbè, già giocato. Vabbè, ma butta a caso, tanto i criminali sono tutti uguali, sono fatti per quelli che non sanno giocare. Guarda, allora c'è cioè... Si può dire, secondo me a mid game una carta che viene giocata potrebbe essere lo sure gamble. Ci sta lo sure gamble. A mid game è un po' ecco, il mid game per run è un po' di solito perché è già apparecchiato. Beh, ma se non è ancora apparecchiato potresti dirgli che so il tutorino, il special order, puoi dire special order. Ecco, contro il criminal dici special order, sicuro che quando vuole andarci a cercare la roba, sì, contro il criminal, contro l'anarch altre cose, contro Shaper per contro l'anarch cosa diresti? Di primo io direi anarch, tutta puoi la vita dire il data sucker, parasite sucker. Parasite secondo me è ancora parasite ancora peggio, madonna. Sì, perché sono sia soldi in mid che in early. Sì, sì, sì. Invece contro Shaper contro Shaper c'è test run, c'è bello test run. Insomma, contro quelle carte che in early, soprattutto questa carta secondo me è più forte in early, quelle carte che in early aiutano il runner a sviluppare il rig, sviluppare il suo gioco proprio. Contro Andromeda gli fai un sacco di male se gli azzecchi la carta. Contro Andromeda il più forte è Sweet Week, sempre la solita. Molto soldi all'inizio del turno. Vabbè, ho capito, tanto giochi giallo, gli giochi questo, gli giochi anche l'altro. Bombissimo. Poi ti sufflona 200 volte, esatto, e tu puppi. Esatto. Comunque è una bellissima carta, a me piace molto, una delle current migliori che c'è. No. Ecco, devo dire l'unica cosa, che le current migliori purtroppo secondo me sono sul lato corto. No, sono anche le altre due, sono belle, ma sono sul lato corto. A me piace anche quella neutrale, quella che ti fa aumentare di uno la forza degli ice. Degli ice. Ne parleremo comunque, i current guaglioni ci piacciono tanto. Continuiamo? Che figata. Perché adesso... Ho letto la scaletta. Non l'aveva ancora letta, signori. Cosa stai facendo? Possiamo partire? Sì, vai. Tra la gente allegra e spensierata, la balera si è ingegnata. E si ingegna pure l'amore mio, che in mezzo a tanta gente mi stringe forte al cuore. Uè! Sembra che hai registrato questo wave, ma lo facciamo ogni volta. Facciamo ogni volta. Figata. Sì. Ok, un altro Wildside. Questo è tutto tuo. Guarda, io mi silenzio, mi metto qua la console, sono pronto per pigiare. Basta, allora, mentre sfogliavo il quadernone per cercare le canzoni. Perché oramai Netrunner DB è chiuso, quindi si sfoglia solo. No, perché io sfogliavo sempre il quadernone. Raga, ma io sono veramente 1.0. Sì, cioè, old school proprio. Old school, cioè... Sono nel ghetto con il mio quadernone grosso, sì, e ballo. Il quadernone box, sì. Va bene. E, con le Adidas e mi attendo un click gigantesco al collo. Vabbè, ero arrivato appunto al Wayland e ho visto The Roots. Sopra, The Root, l'altra canzone che abbiamo messo prima. Però sopra c'era un altro Ice che mi ha incuriosito ed era Ive. E mi sono sentito un po' anch'io Hive. Mi sono sentito essere un Hive, Beehive. And so, ragazzi, un grande ritorno, i Beehive con Freeway. Senti come pompa, Dio Bonino. Io mi dissocio completamente da questa rubrica. Già sull'autostrada io e te, così è solo il vento, io con te, la pioggia, il vento, il sole, io e te, così io e te, per di prati chissà un bel mare blu. Freeway, E questo era Freeway dei Beehive. Sì, Luca Ricci, nel vento io e te. Nel vento io e te. Non tagliare, questa è una canzone anni 80, c'è almeno 9 minuti di finale. No, per fortuna no. Naturalmente è una canzone di quel gruppo fantasioso che faceva esatto. E partecipava a questa cosa che era il Colossal. Era un serial addirittura, che era Kiss Me Licia, la versione attualmente telefilmica. Sì, certo, ma con Cristina D'Avena e con l'attore che faceva Marrabbio, che dice sempre Flavio che è fico. Ma non è morto? Flavio, no. No, non Flavio, cioè, solo l'attore. Inteso, ma va, madonna mia, gli anni 80 erano dietro l'angolo, sono passati 34 anni. Ma sai quanti data pack escono in 34? Madonna, quanti! Comunque, non in italiano, eh. In italiano ci hanno 4. Esatto. Comunque, questa è la canzone che abbiamo scelto, ispirata a Live, Ice Wayland, che non so neanche descrivere, cioè sto veramente la morte nel cuore rispetto a... Allora, non ne metteremo più di canzoni del genere, forse. No, come sì, non c'è? Forse volevo mettere già un'altra, tra l'altro, sempre dei Beehive. Perché... No, basta, i Beehive mai più. Per forza, un Hive, c'è cioè un Hive. Vediamo che faccia un Hive. Hive 2.0. Perché non è uscita con HB? Comunque, mi è arrivato un messaggio. Ma è troppo lontano. Adesso iniziamo con la nostra nuova rubrica. No, non nuova, inteso. Un'altra rubrica, perché sennò qua non chiudiamo più, che è Tornei intorno al mondo. Ed è Tornei intorno al mondo, dove noi prendiamo di solito per il culo dei cazzolini. Allora, noi avevamo scelto un torneo ucraino molto molto bello. Madonna, come tagli con le cesoie sta sigla. Vabbè, ma poi la faccio un fade. Allora, avevamo scelto un torneo che si era svolto a Kiev. Poi abbiamo ricevuto una mail da un nostro ascoltatore, il signor V.P. Utin. Sì. E niente, quindi ci troviamo a parlare del torneo svoltosi a Mosca, sì. In provincia di Russia. Ma la provincia l'hanno abolita. Adesso col nome non aboliranno mai la madre provincia Russia. Madre Russia. Allora, che il nostro vincitore di questo torneo da 17 partecipanti. 17. Io. Cioè, ma sapete quanto è grossa la Russia? Sapete quanti abitanti fa la Russia? Sapete quanti abitanti fa la Mosca in Russia? Ma questo era tipo il nazionale russo, c'era una persona per ognuna delle regioni. Ah, cioè c'era il mongolo, c'era il siberico. Adesso la prendete con le minoranze, però. Beh no, sono abitanti, come dice, c'è l'abruzzese. E che me la posso pigliare con un abruzzese? Comunque, ragazzi, io saluto sempre i miei amici dell'Abruzzo, di Pescara. Sì, sì, saluti. Secondo me voi non ci cagate di pezzo e non ci ascoltate, perché sennò rispondereste ogni tanto. Ecco. Allora, il vincitore è stato Anton... Il vincitore è stato Anton Rogozin. Anton Rogozin. Ma no, c'è il padre francese. Antoine Rogozin. Ok, allora, cosa ha vinto? Parlerò io del lato runner, ti va? Ma sì, dai. Beh, commentiamo anche il premio. Dai, c'è un premio? Certo. Per cosa è andato? Ha vinto una fascina di fieno per il suo villaggio. Ha portato... Ma cosa sono gli Hunger Games? Cioè... Non ci ho capito. Il quartiere 12 porta Anton Rogozin. A Katniss, vabbè. Sono volontario già. Allora, naturalmente, non che potevo portare... Un wizard. Certo, l'abbiamo scelto per quello. Allora, un wizard che porta dentro. Partiamo subito dagli eventi. Due account siphon. Che novità. Abbiamo visto ormai questo template, questo archetipo del l'anarch con dentro i siphon. Qui ne porta due e sono 8 punti di influenza. Eh già, un déjà vu quasi. Poi no, due déjà vu. Tre Dirty Laundry, due Legwork. Mamma, quanto è figa Legwork. Possiamo cancellare la mia carta del giorno e voglio parlare di nuovo di Legwork? Troppo tardi. Ok, che tra quality time, picchia, cioè l'influenza è finita qua negli eventi, pescare e pescare dalla mano del corp. Uno Stimock, non volevo esagerare. Treasure Gamble, va bene. Oh, ma rutta tranquillamente al microfono, Luca Ricci. The Root? Ah, no, The Roots. No, ha fatto anche quella, peccato. La facciamo la prossima volta, ma non poteva... Vabbè, non uscirà un'altra carta. Non uscirà viva. Peccato. Allora, due Grimori, due friggitrici. Tra l'altro è una bomba sta friggitrice, l'ho riutilizzata adesso. Questo qui c'è un carapace. Vabbè. Era un poverello, non gli avevamo prestato gli altri, si vede. Tre Armitage Codebusting come risorse. Cioè... Questo è più dello school, è 0.1 sta cosa. Si vede che sono arrivati solamente il corsetto. Allora, mi spiace dirlo, ma Armitage Codebusting fa schifo. Cioè, e tu che lo giochi, sei pure uno stronzo. Merda, esatto. No, allora, se sei in Anarch, hai una carta che, rispetto a Armitage Codebusting, spacca il culo. Che è... Tu la ben sai, la banca Anarch. La banchetta Anarch, la tizia che piglia il sole. Esatto, perché con 4 click si prende un guadagno netto di 12 crediti. E questo si prende un guadagno netto di 11 crediti in 6 click. Cioè, sti cazzi. Perché? Non andare a guardare i messaggi del cellulare. Ma magari è importante la mia mamma. Ok, va bene. Quindi, mi spiace dirtelo, Antoine, però, mica, che merda. 3 Delicast, va bene. 2 Corroder, 3 Knight, 1 Mimic, 3 Overmind. Vabbè, ci sta col Grimorio. 1 Yogo, classico. Programmi, altri programmi, c'è 3 Data Sucker, 1 Imp, 1 K-Hole, 2 Medium e 3 Paraset. Da questo punto di vista è un classico. C'è veramente... è senza infame e senza lode. C'è una buona pescata per i quality time. Però quelli Armitage Codebusting è proprio un errore da super mega nabbi. Io adesso cerco di perdere tempo mentre Noah risponde al cellulare. È la mia fidanzata. Sì, ma tra un po' non lo sarà più. È la mia... sì, tra un po' sarà mia moglie. So cute. Sì, poveretta, è arrivata adesso a Zurigo, quindi... Zurigo? Mi ha mandato tipo 97 messaggi. Mi odierà ed è tutta colpa vostra. Ma cosa fa a Zurigo? Possiamo dirlo? No. Ciao. C'è la gara di burlesque. Le lol. Spero che non sentirà mai questa puntata. No, così almeno tutti quanti i nostri ascoltatori si fanno una bella immagine della mia donna. Vabbè, andiamo non avanti. Voglio andare oltre su sta cosa. Andiamo avanti e guardiamo il suo HB Stronger Together. Stronger Together, non l'avevo vista. Stronger Together, madre Russia. Perché noi siamo più bioroidi, siamo più forti. Tra l'altro, probabilmente si è forcato a mano tutte quante le carte e c'ha tutti i bioroidi dipinti di rosso con delle falce e martello. Cioè, noi arriviamo verso questa fine del podcast che guardiamo queste cose e cleriamo. Che cos'è Gilda Hands? Gilda Hands Arcology, quella che pigli 2 soldini. 3 soldini, scusami, con un click. 2 soldini con un click. E peschi una carta. È un'agenda. No, è un'agenda. Ah, stai guardando le agende. Tu non sai le carte, questo è il nostro problema. Comunque, lo commenti te? Ma sì, guarda, allora, gioca come agende 3 Accelerated Beta Test, che sono quelle che ti switchano fuori una nice, che nessuno l'ha usato, tranne me quando sono sbronzo, e tutte le volte lo piglio nell'oscureggione. 2 G-Lens Arcology per i soldini. 3 NAPD perché se tu c'è, sì, Contract lo sanno cos'è la NAPD, buon dio, cioè giocano più a Netrunner che respiri questi. Poi 3 progetti Vitruvius. Ivanov Vitruvius. Ivanov Vitruvius. Gioca degli asset classici di Kilo Cash, ovvero 3 Adonis e un Eve Campaign. Poi 3 Jackson Howard giocattolai, non me li devi illuminare perché sennò non capisco niente. Vedo, okay. Poi come upgrade 2 Ash. E qui è un classico KB veramente. Classico, ma perché gioca? Andiamo avanti. Okay. Operazioni. Un Beanstalk per avere Kilo, 2 Biotic Labor. Perché non voleva fare troppo fast advance? No, detto, non esageriamo. Uno sticchietto. 3 Celebrity Kilo. Vabbè, le giraffine, deve far soldi. Le giraffine? Cioè, il costo di influenza sarà anche alto. Tu lo sai quanto è grande la Russia? Tu sei campione d'Italia, ma lui è campione di Russia. Se si scontrano Russia... Italia, cioè te, tra l'altro, come sei fatto? Ma se si scontrano Russia e Kamchatka, cosa succede? La Kamchatka è in Russia. Lui no, magari è nel risico, il risico non è in Russia. Sì, cosa vuol dire? Ma, madonna mia. Vabbè, non si, non, i campioni non sono per Hedge Fund, tre Hedge Fund, sì, per risico. Tu di fatti sei campione anche della Spagna. Esatto. Due internet, cos'è Inters? Inters, per installare dall'HQ o dall'archivi senza passare da via. Il doppio click. Quale barriera? 3 Eli, Eli 1.0 e sono già bioroidi. Ok. 3 Next Silver. Quindi e, questi non gioca... sono... e questi non sono bioroidi. Quindi cioè... gioca con i silver e si pompa più gli altri. Poi come Code Gate, 3 Next Bronzo. E vabbè, sempre non bioroidi. 3 Victor 1.0. Un Victor 2.0. Un Caduceus che non è bioroide. Sentry, un Caduceus che non è bioroide. 2 Ici che sono bioroidi. Una Rotovella che non è bioroide. Un Mother Goddess che... Mother Russian Goddess. Mother... Esatto. Sì, questo diventa bioroide perché prende tutti i sottotipi. Ma secondo me era tipo un torneo che ogni volta che installavi dovevi berti un cicalino di vodka. Esatto, perché se no non mi capace. Cioè... Senti, fammi mandare una mail. Cosa ci avrà sto Antoine. Antoine.rogozin chiocciola... Chiocciola... Mosca... Non c'è Gmail, secondo me non raggiunge Gmail. Ci sarà... Russia mail. Russia mail. Putin ma, mail. Ma si può ancora ordinare una Una pizza? Moglie, una moglie dalla Russia tramite il postal market. Non credo. Si pensava che si poteva. Mandavi una mail a russiamail.ru, anzi. Vabbè, insomma, avete capito che fa così cacao questo mazzo che non lo stiamo cercando di riempire con altre chiudi parole. Chiudi sta roba e vai a farti con... Vai a farti fotte. Come neanche più vedere. Fai partire la sigla veloce del chiedilo al SISOP. Ma come chiedilo al SISOP? Veramente? Sì. Abbiamo una sigla? Sì, abbiamo una sigla. Ah, è vero che c'è dei figa. Chiedilo al SISOP. Ok, signore, chiedi al SISOP, ovvero dove io rispondo alle domande di Noah su Netrunner. In realtà è questa. Cioè, noi mettiamo i vostri nomi, ma in realtà sapete benissimo che in realtà sono tutte domande di Noah. Allora, domande tecniche di quali facciamo? Quali ci speriamo? Queste qua, perché queste LS. Qui. Allora, naturalmente un po' le abbiamo prese dal gruppo Facebook, quindi se vi sentite chiamati in causa, va bene. Cioè, e un po' ce le inventiamo e ci mettiamo il vostro nome. Esatto. Allora, in Mother Russia, noi facciamo domande per voi. Carissimo Santoni Enric Lorenzo, hai fatto questa domanda che io vado a leggere. Scusa, di dove sei Lorenzo Santoni? Secondo me viene da Trento. Non so qual è il dialetto di Trento. Dal Friuli. Va bene. Da Padova? Vicenza. Astra Bumbo, sono di Vicenza. Allora, scusate, è una questione che mi tormenta. Madonna mia, addirittura. Vabbè, è un gioco molto viscerale, tranne. Questa, allora la faccio un po' più epistola violenta. Sì, epistola violenta. Ma se gioco una Femme Fatale, cioè una zozza, su un Data Raven, cioè questa ancora... l'abbiamo già fatta, lo carisci? No, non è stata fatta, l'hai fatta ieri sera al massimo. Ma no, la solita roba, la solita Femme Fatale su Data Raven, bypasso anche l'abilità passiva pagando per rompergli la sub routine. Ce l'abbiamo già fatta. Ma l'abbiamo fatta 2000 volte. Vabbè, non 2000 volte, è una domanda che... Vabbè, comunque, le due abilità si trigger, perché la cosa è un po' tecnica. Che significa? Ma dirgli solo sì o no, che tanto l'abbiamo già fatta. Dio allora, tu non... qualsiasi abilità che c'è sopra su un ice, quando viene bypassato, non viene incontrata. Perché si sceglie, tutte e due le abilità partono. Una è l'iniziativa è quella del... incontro. Del runner, decide di fare il bypass e tutto il resto quindi si fotte. Ok? Se l'abbiamo già fatta, io non mi ricordo che l'ho già fatta. Adesso se metto qua una X... e dico che è stata fatta. Vabbè, secondo me non Lorenzo Enric Santoni. Mi spiace che ti abbia risposto di nuovo. Vabbè, Alessandro Bressanelli in arte mogol. Secondo me Bressanelli viene da Catania. No, Bressanelli è il mio compagno di banco alle medie, quindi lo so che non viene da Catania. Vabbè. Ma un allora, po' così ha votato. Alessandro Bressanelli da Catania dice: con Tenin Institute. Posso mettere il token anche su un Tyrant non rezzato? Non rezzato. Allora, Tenin Institute dice, è una identità Gintake che dice... Ah, faccio io questa, dai, la rispondo io. Ma tu sai Tenin... quella risposta? Certo, sì, l'ho letta. Okay. Ma leggero ieri sera quando abbiamo parlato. Tenin Institute dice... Anche detto il tannino. Detto anche il tannino. Dice che praticamente se lo zio, se l'uncle runner non runna con successo, non runna proprio. No, non ha fatto una run con successo. Se non runna con successo, tu puoi mettere all'inizio del tuo turno un avanzamento su una carta installata. Una carta in gioco. In gioco. Quali sono le carte non in gioco? Diciamo questo. Che così le carte non in gioco sono quelle che c'è in mano, quelle sul mazzo e quelle nel cesso. Punto. Cioè tu la puoi mettere ovunque. E anche... cioè... Sì, ma non la puoi mettere addirittura sulla tua identità o sull'identità dell'avversario, cioè sul runner. Tu a sfregio gli metti un pistumbrillo. No, perché ti sto un pistumbrillo. E quindi che significa? Il... la puoi mettere sul Tyrant, certo. Anche se non è arrezzato, perché il Tyrant dice che lo puoi avanzare solo quando è arrezzato. Ma avanzare è proprio una terminologia ed è un'azione del corpo. L'azione del corpo è di spendere un credito e mettere un token. Spendere un... clicca un credito. Clicca un credito e mettere un token su una carta che puoi avanzare. Invece, come Mushin Ushin, questa cosa è un effetto. È un effetto che mette un token. E siccome l'effetto lo puoi, diciamo che lo puoi fare seguendo il testo della carta, ci puoi mettere il token su qualsiasi cosa, quindi anche su un Tyrant non rezzato. Quindi, cioè, tra l'altro, anche Mushin Ushin puoi mettere i tre pistumbrilli anche su una Sansan. Sì, sì, cioè, sì, fa paura. Bellissimo, bellissimissimo. Quindi, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora. Francesco Hamrick Tilcibaldo Panfilo D'Alessio. Se ti sei riconosciuto, stiamo dando spazio a te. A te e alla tua domanda didattica, sigla. Sì. In casi come Activist Support e New Angeles City Hall, come funziona il check di inizio turno? Allora, semplicissima in realtà anche questa. Activist Support dice che... cioè, stai dando all'inizio... dello scemo a Francesco D'Alessio? No, no, no, intendo che è semplice la risoluzione della cosa. Anche perché io non lo sapevo, sarei stato come Francesco D'Alessio. Vabbè, Activist Support dice che se all'inizio del turno del runner e la corp non ha bad publicity, si prende la bad publicity. Se all'inizio del turno della corp e il runner non ha un tag, allora il runner si becca un tag. New Angel City Hall è molto semplice. Non ha particolari timing perché è un'abilità avoid la sua. La void vuol dire che in un momento in cui succede quella cosa, tu puoi far partire l'abilità per usarla. E in particolare New Angel City Hall, giusto, sì, con due crediti, avoid un tag. Nacca, si dice. Nacca, sì. Quindi non c'è un timing particolare. Activist Support parte, dovresti prendere un tag, ma tu... te la voidi. Te la voidi spendendo due crediti. Quindi, semplicissimo. Con due crediti c'è un click in più. Ma cosa che faceva? Devi voidi il tag. Quindi anche il turno L'Activist del corp. Support, cosa che fa? È perché il tag lo prendi nel turno del corp. Quindi non ti prende il tag nel turno del corp. Bella. Bellissima. Davide Bonfanti Sabbioni viene dal mare. Dice... ciao! Ma queste l'hanno fatta apposta a te o tu sei andato a rubare? No, le vado sempre, cioè, a rubare. Che merda che siamo. Ciao, dubbio sorto in una partita tra nuovi giocatori che magari non ascoltiamo nemmeno questo podcast, ma noi ne parliamo. Femme Fatale verso Komainu. Quanti crediti mi costa superarlo? Secondo me questa la sai. Ma quanti crediti mi costa superarlo? In che senso? Tu hai messo cervelletto sopra Komainu? Sì. Tu metti cervelletto su Komainu, paghi un credito. No. Per... tu lo... che fai? Non lo sai allora. No. Allora. Non paghi uno per ogni carta che hai in mano? Sì, normalmente no. Komainu non è il cane. Sì, e dice che ti pigli un net damage per ogni carta. Hai una subroutine. Per ogni carta che hai in mano il runner. Sì, okay. No. Ma dice... quando incontri Komainu, Komainu guadagna una sabrotina per ogni carta. Quindi che succede? Bypassi. Quando tu stai per bypassarlo, non l'hai ancora incontrato e dici: quante sabrotine c'è su sto cazzo di robo? Zero. Perché non si è ancora attivata l'abilità. Sempre per l'effetto per cui nello stesso timing il runner può decidere far partire prima l'abilità della Femme Fatale piuttosto che quella del Komainu. Quindi 0 sabrutin, 0 crediti, bypassato. Quindi a frischio. A frischio, sì. Caro Davide Bonfanti, Sabbioni vien dal mare, sei un gran figo, hai fatto una domanda veramente... Cioè, secondo me questa, anche i giocatori più esperti come non me come non me dai, insomma, sono le 9:30, stacca, saluti, ciao, è stata bella sta puntata, dai. E poi io c'ho l'allenamento per il torneo domenica, c'è la pallavolo a Mila. Beh, spero che vi abbiamo intrattenuto ancora con le sono cazzate. Sono i vigili che ti trattengono, ti trattengono, spero di aver intrattenuto abbastanza. È stato ancora un piacere per noi rubare queste frequenze. Salutiamo Federico Latini, The Commercial, sì, The Commercial, The Commercial, Commercial GUI. Salutiamo Dennis, un bacio, bacio a Dennis. Salutiamo chi altro dobbiamo salutare? Ma salutiamo tutti quanti i ragazzi che vengono a giocare con noi il mercoledì sera alle 21 al Big Four ad Abbiategrasso, dove almeno in 7-8 ci ritroviamo e giochiamo. Se non 10-12. Se non 10-12, ma perché non venite giù una volta? Tanto Luca Ricci vi ospita e dormite lì. Adesso, tra l'altro, Luca Ricci, c'è una casa tutta tua. Metti giù un cazzo di divano e ti tieni, che so, questo, quello e quell'altro a dormire da te una sera e ci facciamo un bel partito nella Cioè, tu stai invitando degli scooter a casa mia. Casa tua, che tra l'altro è casa mia che ti ho messo l'affitto, quindi bomba. Vabbè, insomma, basta, devo dire... Mi dico, è stato un piacere e... Mi raccomando, andatevi a vedere Le Tartarughe Mutanti Ninja al cinema, che a me è piaciuto. Ti è piaciuto? Sì, anche lui si vuole andare a vedere, dicono che sia bello. Sì, ma magari l'hai già visto quando ci ha puntato. Mio Dio, Inception. Inceptions. Un saluto da Luca Ricci. E me. No, non puoi dire me, tutte le volte facciamo questa mia. Non puoi dire me, devi dire il tuo nome. Un saluto da Luca Ricci. E Noah Sabino Benedetto Vassalli. Alla prossima. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out. Non abbiamo una sigla di chiusura, lo carici. Dobbiamo montarla subito. Ma c'è la sigla di chiusura? Cosa Freeway! Mi sono per mettere a tempo, perfetto. Freeway! No, è un'altra cosa.